coglioni con questo programmino. Perché è un programma di merda, dai, questa zanzarina. Mo ti spruzzo l'autan, eh. Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ragazzi, secondo, credo che sia ancora sottosegretario, questo è un po' esagerato, devo dire la verità, per me è normale che la gente si fumi le canne, che le persone usino della cannabis, eccetera, eccetera. Secondo, credo che sia ancora sottosegretario, se non sbaglio, agli esteri, forse, non lo so, ho dimenticato tutte queste cose, non me ne frega assolutamente nulla dei ruoli. Il signor Della Vedova, ex radicale, la cannabis ormai non si sente una mazza, la cannabis ormai è una tradizione come il vino. Cattaneo diceva: il vino è la nostra tradizione. Io sono un cultore del vino rosso in particolare, però generazione dopo generazione bisogna anche prendere atto che sono milioni gli italiani che hanno deciso loro di consumare cannabis e ormai è diventata anche una tradizione. Io cito gli Stati Uniti non perché siccome lo fanno gli americani. La tradizione mi mancava, però devo dire, no, sì, anche a me. Adesso ragazzi non esageriamo, la cannabis una tradizione, la cannabis si fuma sì, però non è una tradizione come il vino, non è che in tutte le, mentre in tutte le case degli italiani c'è il vino più o meno la sera, non è che in tutte le case degli italiani c'è una cannabis, va bene essere aperti, per carità, non me ne frega niente, anche il vino può fare male, la cannabis come tutte le cose quando sono prese in eccesso fanno male, però non è una tradizione, cioè non direi a qualcuno, beh sediamoci, c'è una canna e accanto una bottiglia di vino ed è la stessa cosa, non è la stessa cosa, diciamolo, non è la stessa cosa. Con orrore, con un certo orrore, ho appreso che esiste, caro Parenzo, un sindacato dei prefetti. C'è sì, un sindacato, certo, dei prefetti. Certo. Amico mio, ma che paese è? Ma possiamo recuperare? Cioè, ce la possiamo fare in un paese dove c'è il sindacato dei prefetti? Cioè, c'è un signore, penso un prefetto, che fa il sindacalista dei prefetti. Beh, no, è strano, però, se c'è il sindacato dei poliziotti... Se no, c'è, ma che c'entra? Ma i poliziotti, sì, per me è anche assurdo. Siccome il prefetto è un dirigente, da dirigente non, no, ha bisogno... No, ragazzi, ma non questo è questo... Sì, tu. Ma non dico questo come un leguleio come te, non sto là attaccato... Il allora, sindacato cose... dei prefetti, amico mio! Il sindacato dei prefetti, il quale naturalmente dice... dobbiamo, no, ci devono portare rispetto... non so come si chiama... Ah, ma questo qua non ha importanza, uno qualunque, un tale che si chiama Palomba. Chiediamo rispetto. Ma che vuol dire chiediamo rispetto? Che c'entra? E siccome siamo rappresentanti del governo, ringrazio il ministro di aver fatto quei passaggi. Alcuni non li ho capiti, cercherò di farmeli spiegare. Però sta di fatto che noi chiediamo rispetto e dignità del lavoro che le prefetture stanno svolgendo. Chiedono rispetto e dignità. Significato di queste parole? Zero. Cioè, non si può rimproverare un prefetto, dice. Bah. Oh, senti che succede. Senti che succede dalle parti di Savona. C'è una casa di accoglienza che si chiama Villa Raggio. Dentro questa casa di accoglienza, ovviamente, ci sono dei profughi. i quali si sono incazzati semplicemente perché hanno ricevuto un cibo che considerano da vecchi. Ma lo sai perché? Perché proveniente è stato prodotto nella mensa della casa di riposo là vicino. Che ridi? C'è da ridere, c'è da piangere, non da ridere. No, mi fa ridere, è grottesco. Scusa. Ma che grottesco? Cioè, è una cosa da vergognarsi. Cioè, hanno organizzato. È grottesco, appunto, dai. Hanno organizzato una specie di raid contro la mensa dell'ospizio che lo aveva preparato. Hanno restituito il rancio, chiamiamolo così, il rancio. Cioè, siccome non erano contenti del cibo che gli avevano preparato e che era stato preparato dalla casa di riposo, hanno in massa si sono diretti. Certo. Ma come certo? Certo, ci mancherebbe altro, scusa. Cioè, non ho capito. Hanno fatto bene. Ma no, è ovvio che non hanno fatto bene. Però adesso se tu ti attacchi all'episodio singolo, adesso chiameranno tutti. No, ovviamente non hanno fatto bene. Ovviamente non hanno fatto bene. Questo è chiaro. Oh, Crocetta più o meno ha ripetuto le stesse cose che ha detto qui alla Zanzara l'altro giorno, difendendosi al Consiglio regionale, poi conferenza stampa, però adesso tocca lavorare, cioè, caro Crocetta, non è che uno può fare interviste, conferenza stampa, discorsi in aula, eccetera, eccetera. Va bene che hai ragione, questa intercettazione non esce fuori, però poi alla fine. Ma sentiamo qualche passaggio, va. Con il suo solito discorso, col suo solito linguaggio barocco. Non ho offerto le mie carni a rapaci carnefici. Mi sono rifiutato di offrire le carni in casto a famelici e rapaci carnefici. Poi sull'intercettazione dice che la sua voce è inimitabile. Qualcuno dice che persino la mia voce sia inimitabile. Proprio gli esperti dicono che la mia voce è inimitabile, perché proprio per il modo di pronunciare le parole, per il fatto che io praticamente ho vissuto in mezzo mondo, che praticamente un po' d'arabo, un po' di francese, un po' di siciliano e lingua italiana, eccetera, eccetera, praticamente nessuno si avventurerebbe a mettere un falso con la mia voce. Chiaro? Allora, il New York Times, che ne dica Marino, che dice che abbiamo tradotto male dall'inglese o che i giornali italiani hanno tradotto male dall'inglese, il New York Times mette la berlina a Roma dicendo che è una città sporca, disorganizzata, che fa schifo, insomma, questa è la realtà. Non è una bella giornata per Roma oggi, perché tra l'altro in metro qualcuno ha viaggiato con le porte aperte per non so quanti minuti, con le porte aperte. Sicurezza della metropolitana romana. Perfetta. La metro viaggia tranquillamente con le porte aperte. Questi alcuni viaggiatori che hanno ripreso con un telefonino le porte aperte della metropolitana di Roma. Allora, io so che i tassisti, quelli che ci stanno ascoltando, moltissimi tassisti sono incazzati perché ieri in un ristorante romano il capo italiano di Uber, la signora Rese Lucini, è andata a pranzo con qualche deputato. Però poi sono andati lì alcuni rappresentanti dei tassisti a tirare dei dollari addosso, a fare un po' di cagnara, diciamo la verità. No, ma io ho molti amici tra i tassisti, però anche i tassisti avranno i loro contatti con i politici, no? Immagino. Sì, ma infatti non c'è niente di strano. Adesso dico, per carità, voglio dire. No, io dico ai tassisti, agli amici tassisti, devo dire di calmarsi, perché i contatti tra i signori di Uber e i politici italiani per far passare, quando sono trasparenti, tra l'altro, perché qui erano un ristorante, non è che hanno fatto la carboneria, erano un ristorante, li avete anche scoperti, avete fatto una manifestazione, diciamo, pacifica, un gesto pacifico, quello di tirare dei dollari addosso, va benissimo, c'erano anche dei deputati di Scelta Civica, anzi di Sciolta Civica, e altri, credo, degli ex dei 5 Stelle, ma non è quello il punto. Adesso non è possibile che alcuni deputati non possano andare a parlare con questi qua. Lo fanno in un ristorante praticamente allo scoperto. Lasciateli perdere, che vi frega. No, denunciate la cosa, dite vabbè. Qualcuno sta cercando di convincere, no, i deputati o la politica italiana a fare delle leggi a favore di Uber. E va bene, basta. Bravi, li volete questi? Bravi, bravi. Bravo. Viva l'Italia! E viva l'Italia! E ci siamo i nostri rappresentanti! Quanti dollari! Allora, a me rimane ancora in testa questa storia dell'omicidio di Pesaro, del ragazzo di 17 anni praticamente sgozzato da un albanese, forse con la complicità di un altro. Il padre è stato pizzicato dalle telecamere di Mediaset, il padre dell'omicida, del reo confesso, che chiede scusa a tutti gli italiani. Chiedo scusa famiglia, quella ragazza che è morta, senti molto male, molta vergogna da tutti, perché mio figlio è fatto quella, lui non ne meritava questa, ti giuro, e chiedi tutti scusa italiani. Era molto bravo, sempre vicino a me. E poi dalla puntata di ieri, l'avvocato professore Carlo Taormina: i gay sono difettati. L'avvocato Taormina colpisce ancora. Ma cosa c'entra il fatto fisico? Perché è un fatto fisico? Non ho capito. Beh, perché che è un difetto fisico. Uno che ha questo tipo di propensioni e non ne ha delle altre, vuol dire che è difettato, invece... è difettato, sì. What a rock and roll all night, and party every day. È tipo omosessuale, lo cercherei di fargli capire di andare verso altre direzioni. Cercherei, se fosse un fatto fisico, perché secondo me è principalmente un fatto fisico. Io non ti vedo tanto lì a fare il nonno come fisico. Un omosessuale faccia la sua vita da omosessuale senza rompere i coglioni. Traffico veo chi là, vero chi là. La Zanzara. Pasquale, la sera vuole la battaglia e vuole sangue e merda. Sangue e merda, chiaro? Allora, abbiamo con noi, caro Parenzo, l'avvocato del reo confesso omicida Igli Meta, Salvatore Asole. Buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Come andiamo? Sai, Parenzo, che l'avvocato Asole, è giusta la pronuncia, avvocato? Allora, ci tengo a sottolineare la mia sardità, quindi Asole. Asole, benissimo. Sai che guarda, esiste soltanto un avvocato che è Carlo Taormina. Ma tu sai benissimo che il professore, no, l'emerito qui al nostro microfono. Ma intanto il ragazzo è completamente innocente. No, ma è una praticamente un allievo o comunque del professor Taormina, assolutamente. Sì, addirittura. No, ho letto oggi qualche intervista all'avvocato, qualcosa ho letto. Su che cosa? Non ho capito. In oggetto. Vabbè, io volevo dire una cosa, avvocata Sole. Allora, il ragazzo è non è omicidio premeditato, ha detto intanto. E come fa a dire che non è premeditato, avvocato? Questo ho letto. È una tecnica difensiva. Allora, diciamo che più che una tattica o una tecnica difensiva, io a mio sommesso giudizio mi riporto quindi a quelli che sono, diciamo, al momento lo stato degli atti e la dichiarazione del ragazzo, quindi a mio sommesso giudizio ritengo che non vi sia premeditazione. Cioè, quelle ma robe. Ma portate il coltello, amico mio. Il coltello, i guanti, è tutto. Il nastro, come fa a non essere premeditato? Ho letto tutto. Sì. Benissimo, guardi. Che volevano fare? Io le posso fare questo esempio. Una volta ho avuto un grosso scontro in un'aula di tribunale, sì, no? Con un collega, sì, va bene, che appunto diceva: ah, ma i sardi non si fanno bella mostra dei coltelli, basta andare in Sardegna e a fianco alla bancarella del Torrone c'è la bancarella dei coltelli. Benissimo, io gli ho risposto, gli ho detto: io sono sardo e non porto il coltello in tasca, ok? Ecco, lui ha risposto dicendo: ma io mi riferivo all'ambiente agropastorale. Doppia offesa, ho detto, perché i miei migliori amici sono i pastori, i quali portano il coltello in tasca, sì, ecco, ma non è che vanno tutti i giorni ad accoltellare la gente. Cioè, lei mi sta dicendo che gli albanesi, no, i ragazzi albanesi hanno l'abitudine di portare il coltello in tasca? No, io mi riferisco al caso di specie, dove il ragazzo dinanzi al magistrato ha detto anche la provenienza di questo coltello, era un ricordo del nonno che è deceduto un po' di mesi fa, sì, va bene? E che se lo portava a fare tra i vari ricordi, sì, tra i vari oggetti del nonno, lui si era tenuto questo coltellino. Sì, d'accordo, questo d'accordo, ma che se lo portava a fare dietro, scusi, no? Abbi pazienza. Cioè... Ma non l'ha portato solamente quel giorno. Ah, ho capito. Girava, ecco, gira col coltello. Uno ragazzo di 20 anni gira col coltello in mano. No, attenzione, col detto così, ecco, sembra che si sa quale coltello. Lei mi sta dicendo che era abituato a portare questo coltello, è un regalo del nonno, no? Come ricordo, come quello che come ricordo del nonno. Il coltellino appeso al portachiavi. Ma scusi, ma questo coltello di quanti centimetri è? Perché ha sgozzato la gola al povero ragazzino. Ma guardi, è stato chiarito anche questo, era un coltello che appunto chiuso misurava 12 centimetri. Circa. Ho capito, 12 centimetri. Ma amica, ho capito amico mio, ma beh, 12 centimetri non è proprio una roba piccola, 12 centimetri. Cioè, beh, non... vabbè, adesso. Beh, cioè, più di un coltellino svizzero per intenderci. Cioè, non è che ha sgozzato, con quale forza ha sgozzato? Quasi decapitata praticamente la testa. Vabbè, tanto è tutto da dimostrare, guarda. No, non c'è niente da dimostrare, è confessato. Scusi, quanto potrà prendere secondo lei di anni, così a occhio? Ma guardi, io non ragiono in termini di anni, no, io facciamolo ragiono così. In questo momento no, ragiono solamente su un aspetto tecnico giuridico. Vabbè, quello d'accordo. Che a mio giudizio non c'è premeditazione. Cioè, sono andati lì e non lo volevano ammazzare. No. L'hanno portato lì senza volerlo ammazzare. Lo scopo non era quello di ammazzare. E qual era? Dare una lezione? Che cosa? Dare una lezione, spaventarlo. Ecco, spaventarlo. Questo. Ma non certamente di ammazzarlo. Scusi. Ma è nelle capacità di intendere e volere, secondo... chiederà una perizia psichiatrica, immagino. Guardi, non la chiedo per un semplice motivo, perché il ragazzo è pienamente capace di intendere e di volere. E lo dimostra per sei ore di interrogatorio. Però è normale che cioè, lei punta a una riduzione della pena, questo certo. Questo mi sembra pacifico, no? No, certo. È scontato, certo. Secondo lei, data l'età, l'età, la premeditazione che non c'è, in quanto se la può cavare sto ragazzo di 20 anni? In quanto se la, diciamo, ma realisticamente. Ma io le sto dicendo che se io le leggo il 575, no, mi legga gli articoli. Sì. No, sull'omicidio dice che il reato di omicidio è punito con una pena non inferiore a 21 anni. Benissimo. Poi? Questa è la pena base. Poi è normale che assistiamo a pene anche di 16 anni, 17 anni e così via. No, ma secondo lei, con tutte le cose, 20 anni, mettiamo che sia provata la non premeditazione e tutto, se la può cavare in 10 anni di galera? Ma effettivi lei dice? Effettivi, sì. Ma guardi, io in questo momento non sono in grado di fare, no, le dico onestamente, di fare questi conteggi. Sappiamo tutti quelli che sono i benefici premiali appunto della legge italiana, ecco, se ne avrà diritto li otterrà, ecco, quindi no? Queste sono cose. Cioè, se si comporta bene tutto, se passa la non premeditazione, se la può cavare. Ma se appunto passa il discorso che non c'è la premeditazione, è chiaro, è normale che non è un omicidio da 30 anni o da ergastolo. Scusi un attimo, ma l'altro è complice oppure no? No, su questo non mi pronuncio. Come non si pronuncia? No, nel senso che domani mattina ci sono degli interrogatori di garanzia. Ecco. No, ma da quello che lei sa, l'altro è complice o no? Cioè, ha partecipato attivamente? Da quello che so io, avendo sentito per sei ore il mio assistito in sede di interrogatorio, posso solamente dire che, diciamo, un ruolo attivo è stato esclusivamente del mio. Ma si è pentito, questo già l'ha detto, si è pentito di quello che... Ma è stato un rapto. La prima cosa, ma non detta appunto, ecco, tramite me, che potrebbe essere credibile o non credibile. L'ha detta lui davanti al giudice. È la prima cosa che ha tenuto a sottolineare dinanzi al magistrato. Certo, ma ricevete minacce di morte perché sono albanesi? C'è stato anche un tentativo di linciaggio l'altro giorno, o no? La famiglia riceve minacce di morte. No, niente di tutto questo. Niente. Meno male. No, quindi la reazione adesso. Senta, ma veramente il motivo è stata la gelosia, perché uno scambio di telefono di Ismaele con la ragazza di questo tizio, o no? Secondo il racconto del ragazzo e secondo i riscontri, appunto, confermiamo che il momento è stato quello. La gelosia? Sì. Ma come si fa a ammazzare così per gelosia? Ma lei lo so, uno perde. Amico mio, amico mio. È una bella domanda. È una bella domanda. Cioè, uno sgozza. Uno taglia la gola, a uno di 17 anni per un telefono scambiato. Ma che roba. Voglio spiegare all'avvocato, all'amico avvocato, che. Non è manco tempo di perdono, o no? O bisogna perdonare, secondo lei, avvocato? Bisogna perdonare. Guardi, no. Il discorso del perdono è una questione personale. La famiglia dice che in questo. In questo momento non è manco tempo di perdono. Guardi, se le dovessi rispondere onestamente, direi risponderei anch'io come ha risposto la famiglia. Non è il momento. Non è tempo di perdono. Che c'è, Parenzo? Che mi devi dire? No, volevo dire che tu questa cosa qui del tradimento non la capisci, l'avvocato non lo sa. Ma se volesse portarsi un testimone, lei può portarsi Cruciani, che invece auspica il tradimento, anzi lui vuol proprio vedersi cornuto, capito? Se dovesse capitare Cruciani un altro vuole vedersi cornuto, ecco. Avvocato, no. Anche per lei, lei è sposato, avvocato? Io sono sposato, certo. Le piacerebbe, anche io come lei credo, a lei non piacerebbe vedere sua moglie che le fa le corna, immagino? Se mi piacerebbe? No, le piacerebbe o no vedere sua moglie che le fa le corna? Le rispondo da sardo? Sì. Bravo! Le posso girare la domanda a lei? Sì, me lo dica. No, a me no, me farebbe incavolare da morire, no. Certo. Oh, a Cruciani ecco, no. Quindi. Ecco, no, io se sua moglie fargli le corna. Non no, ma io no. Cruciani teorizza invece che è giusto che. Io adoro. Cruciani cosa farebbe? Io adoro. Io parteciperei. Lei parteciperebbe. Parteciperei. Adesso per carità siamo passati da una tragedia infinita allo scherzo. Però la gelosia, ragazzi, la gelosia è una roba pazzesca. La gelosia, io sono dell'idea che la gelosia ci vuole una perizia, vecchio mio, no? Perizia. Ascolti, la gelosia che cos'è? Al pari dell'amore, al pari dell'odio, al pari cos'è? È un sentimento. Sì, un sentimento. Vabbè, okay. Certo, non è che tutti ammazzano quelli che sono gelosi, sennò sarebbe una carneficina. Ma questa è la patologia della gelosia, la malattia. No. Devo chiudere, avvocato, giornale radio, devo chiudere. Ormai è tutto degradato ormai. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Pubblicità. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Radio 24 e il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. La Zanzara. Buonasera. Dica. Io vorrei parlare di puttane. Parla di figa, per favore. A noi non frega in casa di niente. Ragazzi, diciamo la verità, a chi interessa, come giustamente dice questo ascoltatore, a chi interessa del fatto che Denis Verdini lascia Berlusconi e Forza Italia, posto che lo faccia, perché potrebbe essere tutta una messa in scena, potrebbe essere un grandissimo gioco delle parti, dice che ha la possibilità di fare un gruppo autonomo, ma chi se ne fotte, ancora con queste alchimie politiche, il frazionamento della politica, Verdini che forse appoggerà Renzi, sì, interessa a te, cioè interessa a te, quattro gatti. Il posizionamento di Denis Verdini. Dai, confessa, dillo che non gliene fotte niente a nessuno, dai. Ma no, a me interessa, non pretendo interessi a chiunque. Dai, ma non interessa a nessuno, dai. A nessuno. Non interessa a nessuno. Denis Verdini, dai, Denis Verdini. merita una riflessione questo. No, non merita nessuna riflessione. Non riesco a dire nulla su Denis Verdini. Guarda, non riesco a dire veramente nulla su Denis Verdini che lascia Berlusconi. Non riesco a dire. Perché tu che cosa hai da dire? Vediamo se hai qualcosa da dire. L'addio Forza Italia di Verdini. Che cosa hai da dire? Avanti. Ma lei ha da dire, ci sarebbe tantissimo. Dimmi che va a processo per bancarotta, peraltro, signor Verdini. Esatto, esattamente. Vabbè, allora, sul perché Verdini fai sceglie. La tua analisi. Presenta. Perché Verdini sceglie di lasciare. Ma non Forza fare Italia, le domande, dai una risposta. Ma è una roba degradata, dai, ma che va il soccorso alla maggioranza di Renzi, ma che roba è? Eletto con forza, ma è una roba pazzesca, cioè, dai. Cioè tu dici che Renzi durerà di più in questo modo? Ma questa è una banalità, e questo è scontato. Questo è evidente, perché formerà la notizia di oggi, è il gruppo notizia, poi per carità, per carità, sì, c'è altro da fare, sicuramente c'è altro di più interessante, però il fatto che ci siano delle persone che sono pronte a seguire il compagno Verdini e quindi la maggioranza di Renzi pronta ad allargarsi. Che emozione. Poi come? La maggioranza di Renzi pronta ad allargarsi? Ad allargarsi rispetto a perdite avute nel corso di questa legislatura, sì. Cari amici, questo merita una riflessione. Merita una grandissima riflessione, veramente, una grande riflessione. È più interessante forse scoprire se è vero che Berlusconi farà il ministro di Putin e addirittura e addirittura otterrà la cittadinanza russa, come avrebbe detto ad alcuni deputati. Questo sicuramente è più interessante. Sono d'accordo con te. Però io mi ero dimenticato ieri di quello che poteva regalare il professore avvocato Carlo Taormina. Adesso, proprio per il piacere di ascoltare queste cose, proprio per le vostre orecchie, voglio offrirvi le confessioni dell'ultimo omofobo italiano, o di uno degli ultimi omofobi italiani, che noi non molliamo. Ecco, perché non molliamo l'avvocato professore Carlo Taormina? Perché in fin dei conti rappresenta, in questo mondo in cui, come leggo oggi, un ragazzo inglese gay è diventato padre di 10 bambini avuti da 9 donne, Facebook è una cosa meravigliosa, sono felicissimo, so già di avere 10 bambini, sono tutti fuori, vivono felici e comunque mi appartengono, ma al momento non avverto la necessità di entrare nelle loro vite e conoscerli. Cioè, questo qua ha regalato lo sperma a coppie lesbiche, la maggior parte erano coppie lesbiche, e ha in giro, perché si può fare naturalmente, non è vietato, e ha in giro 10 figli, cioè dona lo sperma. In questo mondo degradato, dove addirittura arrivano per posta ormai i bambini, come è successo a una coppia italiana che si è vista recapitare, non il bambino naturalmente, ma il modo per farlo, ecco, semplifichiamo in questo modo, il modo per fare il bambino, l'eterologa stiamo parlando, dalla Spagna per posta, cioè non è nemmeno più necessario andare nei posti, cioè si può avere un bambino per posta, ecco, in questo mondo spicca la figura omofoba del professor Carlo Taormina. Tu hai un amico frocio? No, non ce l'hai? No, io non lo so, che ne sai chi è frocio e chi non è frocio? Normalmente li riconosco, però ci può essere pure qualcuno che magari... E come li riconosci? E che c'hai? Ti riconoscono subito, dai, si riconoscono. Ma non sarebbe un dispiacere se non è difficile riconoscerli. Ma come fai a riconoscerlo? Ci sono dei movimenti, delle mosse, delle mossette, dei particolari, certe volte io li ho studiati, li capisco. Cioè si possono riconoscere i froci, i gay, gli omosessuali dalle mossette che fanno. No, insiste poi, perché parla anche di delinquenti. Cioè lui è bravissimo a riconoscerlo, a riconoscere i gay, perché sa riconoscere i delinquenti. Non è dalla voce, soprattutto il movimento delle mani, il modo di camminare. Ci sono tante cose. E li pizzichi subito. Io li pizzico subito. Come i delinquenti, uguali, i delinquenti li riconosco ma subito. Ma che paragone è? Cioè, ma è veramente... secondo te... è possibile che l'avvocato riconosca i froci così? Secondo ma, te è possibile? Ma è semplicemente fissato. È un fissato, un paranoico, è pazzo da questo punto di vista. E poi c'è la frase, diciamo, che già vi ho mandato sui gay difettati. Cioè, secondo l'avvocato Tormina, l'ultimo residuo omofobo. Ma è una fissazione. Ma io dico omofobo non nel senso negativo, però. Lo dico, ha diritto di dire quello che pensa. Non è che può essere condannato perché pensa che i gay sono difettati, che hanno un difetto fisico alla nascita. Non possiamo condannare. Tu condanneresti, Parenzo. Tu condanneresti. Ma questo senza ombra tu di dubbio. Condanneresti. Tu ma condanneresti. Certamente, ma certo che sì. Ma certo che sì. C'è uno che dice un gay è difettato, va condannato, secondo te? Va condannato. Perché non glielo dici in faccia allora? Beh, ho provato a dirglielo ieri, ma che sicuramente. Provato, dai. Sicuramente, se io penso che vada condannato. Cioè vada condannato in tribunale uno che dice che i gay sono difettati. Purtroppo non c'è ancora il reato. Ma dai, su. Il reato di omofobia purtroppo non c'è, ma vabbè, io dai, penso dai, sentiamo. Penso ci dovrebbe essere. Ah, beh, ma Parenzo non facesse lo stronzo, perché adesso mi ha rotto i coglioni pure lui, Ma cosa c'entra il fatto fisico? Perché è un fatto fisico? Non ho capito. Beh, perché che? È un difetto fisico. Uno che ha questo tipo di propensioni e non ne ha delle altre, vuol dire che è difettato, invece... è difettato. Certo, è difettato sì. Bene, devo dire che avendo dichiarato nei giorni scorsi che volevo avere una relazione storia, diciamo una storiella con l'amico Vladimiro Guadagno, detto Vladimir Luxuria, te lo ricordi in una delle puntate scorse, caro Parenzo? Come no, lo hai dichiarato? Però sì, devo dire la verità, che oggi ho visto delle foto della signora Luxuria al mare, paparazzata da non so quale giornale, e ci ho un po' ripensato. Ormai l'hai detto. No, l'ho detto, è vero. Ormai non mi tiro... l'hai detto e lo fai. Però ci sono delle foto che, almeno per come le vedo io, mi appaiono drammatiche. Troppo facile così. Ma l'hai vista? No, tu no, che cazzo te ne frega, stai in vacanza, non hai visto una mazza. Ma non è, sì, no, però a parte che no, a parte non l'hai vista, sono no, apparse no, un po' ovunque. Sono apparse scusa un po' ovunque. Non mi metto a guardare le ma foto. Ma no, ma non c'è bisogno di guardare le foto, bisogno. Basta guardare nei siti e sfrucugliare sì, qua e là in curio. Magari sfrucugliando qua e là. Sì, ma che non faccio. Interessarti dell'euro. Non mi interessa. Ma sono cose fondamentali queste cose qua. Comunque boccaglio da costume, boccaglio e costume due pezzi. Adesso vado a vederlo però se vuoi. Insomma, c'è anche un po' di calvizie, c'è anche cioè, un po' di calvizie. Se tu ci tieni vado a vederlo adesso. Un po' di calvizie, pancetta, insomma, non è granché, diciamo la verità, non è granché. Però, ragazzi, non è che... quanti anni ha Vladimiro con la mia età, forse? Beh, 50 arriva anni. Ai 50 credo potrei ripensarci Parenzo no, ormai l'hai detto ripensarci e potrei... il pubblico della Zanzara si aspetta che tu lo faccia ora. Potrei anche ripensarci. Siamo qui, popolo della radio, 800 24 00 24. Dove andiamo? Andiamo a Pisa, Giovanni, vai. Giovanni? Oh, Giovanni? Michele da Bergamo, dai. Eccomi, Michele dimmi, da Bergamo. Dimmi, vai. Ma riguardo all'intervento che ha fatto prima l'avvocato Asole, no? Volevo giusto sollevare il quesito, no? Del perché un avvocato di quello spessore, che non è certo l'ultimo, no? Dei difensori d'ufficio, arriva a difendere un personaggio del genere. Voglio dire, sicuramente è un caso che, visto il clima, no? Di tutte le tensioni che sono adesso tra discorso immigrazione, cittadini, eccetera, e la convivenza difficile, eccetera, eccetera, è sicuramente un caso che all'avvocato del genere porta a rilevanza mediatica, infatti a parlare alla Zanzara Radio 24. Detto cioè, non questo, ho capito, perché l'avvocato, secondo te, si vuole solo fare pubblicità? Beh, mi sembra evidente la vicenda, no? Vabbè, e poi... E ci può pure stare, ma detto questo, che non ce la venga a raccontare con la storia delle premeditazioni, che non c'è, perché voglio dire... Beh, quello fa il suo lavoro, però... Sì, fa il suo lavoro, ma voglio dire, vuole sfruttare la vicenda per fare pubblicità, ben venga, voglio dire. Però per certamente lui, uno che porta dietro guanti, coltello e quant'altro. No, certo. Non c'è dubbio. Non c'è. Giovanni da Pisa, vai, c'è o no sto Giovanni? Non c'è. Angelo dalla provincia di Brescia, dai, no. C'è Giovanni o no, cazzo? Sì, ci sono. No. Dai, forza. Qui. Sì, mia nonna in carriola, dai. Chi è? Chi c'è? Angelo Giovanni, cazzo, chi c'è? Angelo. Io sono Giovanni. Ragazzi, come? Però non mi fate sti casini in diretta, Cristo, dai, Giovanni, dai, non mi fate, dai, forza, Giovanni. Sono qui. Dai. Niente, pronto? Dai, forza. Allora, ho telefonato soltanto per dire se mi è sembrato... Pronto? Vabbè, ragazzi, arrivederci, dai, forza, chiudiamo qui, pubblicità, dai. Ma non c'è dubbio che il culo di una donna va bene e il culo di un frocio no. Scusa, è tanto evidente. La Zanzara. Siamo al top, siamo al top, ragazzi. I feel hot cold. Can it play it down my soul? Yeah. Voglio leggervi quello che scrive la proprietaria di un bar, la proprietaria di un bar ad Asiago, un bar che si chiama Time Out, in pieno centro ad Asiago. Non so se lo conosci questo bar, ogni tanto vai ad Asiago anche tu, Parenzo. Allora, questa proprietaria, mi senti o non mi senti? Ti sento benissimo, conosco anche il bar. Benissimo, allora, la proprietaria o quella che gestisce questo bar scrive: caro Stato italiano, oggi all'interno del mio bar è arrivato un reggimento di zingari che, con la scusa di festeggiare la nascita di un presunto bebè, hanno iniziato a consumare birra e vino accumulando un conto di oltre 90 euro. Fino a qui tutto normale, quando però gli viene presentato il conto con tanto di sconto finale, la musica cambia, la situazione inizia a degenerare perché non ne vogliono sapere di saldare il conto, dicendo che sarebbero ripassati il giorno dopo per pagare. Al rifiuto del mio socio, questi iniziano a offendere pesantemente, a fare danni, a vomitare in giro per il locale, facendo scappare a gambe levate gli altri clienti presenti nel mio bar, provano persino ad acquistare un coltello nella vicina ferramenta per intimorirci, ma non gli viene dato, il coltello. Dopo una lunga discussione vengono accompagnati al bancomat dal mio socio e da altri clienti affezionati per prelevare, ma il capo branco, probabilmente alticcio, sbadatamente tira fuori un bel po' di soldi. I suoi compagni gli intimano di nasconderli, ma ormai la frittata è fatta. Ci siamo fatti consegnare il totale del conto tra minacce, offese e ingiurie di varia natura. Si abbassano i pantaloni, bestemmiano, eccetera, eccetera. Questo succede a Asiago, bar Time Out al centro di Asiago, capito? Ecco, ma la domanda è: perché questa simpatica, gentile cassiera o proprietaria? Perché evidentemente non gli era mai successo con altre persone. Non gli era successo immediatamente la polizia, come si fa con i clienti che non pagano? Perché voleva farsi pagare, evidentemente. No, dico appunto, perché non chiama la polizia? Vabbè, ma adesso magari glielo chiediamo, magari chiamiamo, no, e chiediamo. Dopo io figuro, non è che. Allora, quello non c'è più. Angelo dalla provincia di Brescia, dai. Ciao, ascoltami. Sì, dimmi. Volevo raccontarti un fatto che mi è successo circa 20 anni fa. I primi albanesi che arrivavano, no? Beh, siamo sull'attualità, Bene. Chi è che parla? Parenzo. Ma lascia terra. Sì. Che senso? Un fatto di 20 anni fa, siamo di attualità. Stai zitto che devo parlare io. Vai sulla 20 anni fa. Ma lascia perdere, Dio, che continui a slabruzzare quando. E andiamo con la bestemmia, su. Allora io. No. Angelo, allora, non ho capito una cosa. Non ho capito, Angelo. Allora, hai chiamato e vuoi raccontare un fatto di 20 anni fa quando sono arrivati i primi albanesi. Immagino, 20 anni fa, insomma, una roba. Immagino che sia collegato alla vicenda di Pesaro. Sì, esatto, è per quello che te lo stavo dicendo. Parenzo, sei sempre convinto che l'attualità 20 anni fa? No, per carità. Vediamo. È attinente perché poi ti dico cosa è. Abbiamo molto tempo, prego, puoi farci tutta la storia dell'arrivo degli albanesi in Italia, prego. No, ma guarda, ma cosa vai a chiedere in ballo? Io devo raccontare un fatto mio, lascia stare albanesi. Avanti, allora, vai, mi avanti, fermo. Somaro, vai avanti. No, Somaro sei tu e tu e tutto quel muso di scimmia che ti ritrovi. Ma cosa cazzo ne fai di uno con chi non offende? Io non voglio parlare. Sei tu che offendi, vai avanti, Brutali, Somaro. Dimmi, non fai transito. Beh, ho capito, sta parlando con te, è presente qua, che dopo. No, ma io non voglio parlare con lui, perché devo contare un fatto mio. E lo so che il cavolo ti interrompe sempre. Vabbè, dai, Parenzo, non ho capito perché ti scoccia che racconti un fatto di 20 anni fa? Non ho capito, David. Mi scoccia. Ma no, perché uno che esordisce dicendo: albanesi, devo raccontarti cosa è successo 20 anni fa. Beh, no, io sto parlando con Crosani, non con gli albanesi, non di scarlonate. Ma sarà possibile, Dio caro? Allora, succede che mi fermo la fine a telefono di bestemmiare, cretino che non è altro. Ma che è un maleducato cretino? Ma non è a cagare con quel naso che sembra un timone di una petroliera. Cretino maleducato, ma che non si bestemmia, imbecille. Di un metale. Guarda che domani mattina passa un furgone giallo del cretino. Cretino maleducato, ma che bestemmia. Ma Crostani, ma ascoltami un po'. Ma com'è il naso? Non ho capito. Io poi non l'ho nemmeno preso. Non ho capito com'è il naso, scusa. Com'è il naso? Ah? Il naso di Parenzo, com'è? Non ho capito. Il sembra naso. Un timone di una petroliera. Ah, ecco, appunto, il timone no, di una petroliera. Vede, basta che non bestemmi, sto cretino. Basta, ma non, non ho capito. No, cretino sarai tu. Non ho capito. No, tu sei un maleducato e anche un cretino. No, maleducato sarai tu, perché non ti ha interpellato nessuno. Ma non ho... Va bene? È qua. Allora, guarda, è siccome qua. Capisco che la cosa ti piace, non solo sono interpellato, ma sono pagato per essere interpellato. Ma vabbè, quindi, cazzo, solo da contatto. Io volevo raccontare un fatto e tu continui a interrompere. Ma un Intanto tu non devi bestemmiare, primo, perché se bestemmi sei un cretino, capito? Cretino sarai tu. Vabbè, dai. Cretino. Allora, Angelo, forza, dimmi. Forza, se non lo fai smettere dopo. Vabbè, non ti... Ma che due conti? Che facciamo due conti? Che fai? Che passi col camion giallo? Che è sto camion giallo? Ma io ho chiamato per spiegare una cosa che mi è Ma cos'è questo camion giallo che hai? Che è il camion giallo? Ma ah, no, camion giallo, bene, lo sapete. Posso raccontare il fatto o no? Vai, dai, racconta, dimmi. Allora mi fermo alla cabina telefonica per non lasciarsi un numero che io dovevo incontrarmi con una, no? 20 anni fa, sul telefonino. Sì. Di fianco a me c'è una bionda che sta telefonando a 3 metri, ok? Sì. Io chiamo la persona che mi interessava, finisco, esco fuori e sento «Ehi tu, bastardo!» Cambi tiro, è successo. Sì. Cosa hai parlato con la mia donna qui là? Che ho, ma che cazzo ti ha mai visto? Ed era un albanese che mi ha detto io ti taglio il collo. Sì, ma vai a cagare, va. Faccio per andare sul furgone e mi ricorre dietro. Ho tirato fuori il bastone della bandiera che avevo sotto il sedile. Sì. Gli ho piantato 2 lignate alle gambe che è andato a valle in su. Dopo una settimana io lavoravo lì alla Bürer dove c'era la birra. Alla Bürer, sì. Ha trovato una gamba di una donna lì, il resto che ti vuole scrivere. C'era tutta quella banda lì, la mia donna, sono le famose donne che sfruttavano loro lì. Ma non ho capito, che vuoi dire con questa cosa, Angelo? Che gli albanesi hanno questa cosa no, della gelosia? No, gli albanesi, quelli... Prego, non faccio un mucchio, se no sarei un cretino io a dire gli albanesi... Allora, se mi fai l'esempio dell'albanese, perché vuoi fare un collegamento? Pensi che gli albanesi siano gelosi, siano gente gelosa che ha il coltello facile, ma... Sì, anche la pistola facile, se per te. Anche la pistola, capito Parenzo questo racconto, il racconto sì, di Angelo? Mi sembra fondamentale, andiamo avanti, poi? Poi? Niente, gli ho piantato 2 lignate alle ginocchia questo e poi me ne sono andato, però... Questo domani voglio sentire. Gli avevo fatto un bel danno e mi stavano cercando, però nessuno ha dato il numero alla mia targa. Capito Parenzo? Capito Parenzo? Sì, sì, no, mi è molto, tutto molto chiaro. E allora? No, ma uno che ti dice ti taglio il collo, no, tu sei venuto qua che nessuno ti ha chiamato, te lo do io il collo. Ti stacco la testa a cannellate. Parenzo, hai capito? E comunque, ti stacco la testa, questo non ho capito. Qui arrivano tutti e hanno tutti delle pretese. Quelli di oggi che non volevano mangiare la roba delle vecchie, sì. Dei vecchi, sì. Ma pane e acqua gli date, a casa loro gli davano le costate, le bracciole, gli davano tutto di buono. Ma cosa cavolo vengono a fare qua per rompere le balle così? Ma scusa, non ho capito, che ne sai che davano le bracciole a casa loro agli immigrati? Ma no, a quel punto hanno rifiutato quel mangiare lì. Hanno rifiutato il mangiare della casa di riposo, sì. Sembra. Esatto, a casa loro si vede che gli davano le costate, gli davano, non so... Parenzo, vuoi rispondere o no a questo signore? Beh, cosa vuoi rispondere a questo signore? Che ne so, ha fatto un racconto e poi... Perché, ho capito, ha fatto un racconto. Vabbè, poveretto, dai. Ha fatto un racconto. Sì, sì, sì. Un racconto ha fatto, sì. Vabbè, ma parlaci. Ma non voglio parlarci con questo bestemmiatore idiota, non mi interessa. Aspetta un attimo, tu te la vai a cercare, prima o poi qualcuno ti spaccherà la ghigna, te forse le dare delle parolacce. Non è che ti ho già sentito tante volte a dare delle parolacce. Ma prima o poi troverai qualcuno che ti dice quel nome del timone. Prima o poi vedrai che te lo trovi. Ti e tu pensi di avere in mano la verità e la furbizia. Idiota, cretino, imbecille, salame, asino, pure i titoli a tutti. Dopo troverai qualcuno in giro che se la lega al dito, appena che ti becca ti dà il salame, l'asino e anche la cosa. Ciao. Ti aspetto. Allora andiamo a Brescia, Maurizio, ancora Brescia, vai Maurizio. Non c'è, ragazzi, ma che c'è stasera? Oh, Giuseppe dalla provincia di Bari, dai, forza. Giuseppe dalla provincia di Bari. Andrea da Vicenza. Ciao Cruciani. Dai, dimmi. Allora, no, considerazioni che hai fatto all'inizio, no? Che sul ragionamento della vedova, no? Tu ti permetti ogni volta di fare le tue statistiche, che non so dove prendere i dati, che secondo te è una cazzata, quella che ormai è diventato un'abitudine, diciamo, della vedova ha detto che è un'abitudine come quella di bere il vino. Sì, adesso, francamente, io sono per la legalizzazione assoluta, dunque sono dalla parte di della vedova. Ma non stai facendo del bene, che vuol dire? Che devo avere le orecchie, gli occhi foderati di prosciutto e devo dire sì a tutto quello che... Ma scusa, quanti sono gli italiani che si fanno le canne, lo sai? Ma cosa c'entra? Ma non c'entra niente con questo, possono essere anche tanti. Sono diventati una quantità per cui è diventato un uso, una consuetudine per cui si può paragonare. Allora, che la cosa sia molto diffusa non c'è dubbio, che per alcuni sia diventato un'abitudine è vero, ma non è paragonabile al ruolo del vino a tavola, che non è l'esempio giusto quello che ha fatto uno dei principali paladini della legalizzazione. È un esempio sbagliato, secondo me, lo posso dire, perché sì, nonostante... Nonostante sì, io sia a favore della legalizzazione della marijuana, delle droghe leggere, paragonare la marijuana come abitudine al vino è sbagliato. L'ha detto in modo diverso, è come dire, quando è una tradizione per me. Ma non è una tradizione la canna, ma di che stiamo parlando, ragazzi? Ma non è una tradizione, allora è una tradizione. Canapa, cioè, ma ho capito, non è una tradizione per gli italiani. Ma come no? Ma sai che l'Italia sono i maggiori consumatori al mondo. Ma d'accordo, va benissimo, ma non è una tradizione. Sì, ma non si può paragonare a una roba come il vino, che è la convivialità familiare, il pranzo, la cena, non è la stessa cosa. Dai, su, ragazzi. Va bene. Hai ragione tu. No, non è che ragione io, però neanche tu sparare. Ma no, ma non è sparare, è la realtà dei fatti che è quella, è la realtà. Sosteniamo questa battaglia. Ma no, che c'entra sostenere la battaglia col mettersi il prosciutto davanti agli occhi? Io sostengo la battaglia, però sono contro le cazzate. Sono a favore di questa battaglia, ma sono contro le cazzate. Laura da Rimini, abbi pazienza, sono sempre contro le cazzate. Paragonare la cannabis all'uso del vino che si fa tra le famiglie, nelle famiglie italiane a tavola, è una minchiata. Laura da Rimini, dai. Sì, salve, ciao Cruciani. Ciao, dimmi. Ciao, io no, niente, volevo parlare della pro-legalizzazione della marijuana. Vabbè, sono d'accordo, allora? Esatto, no, niente, io soffrivo di depressione, facevo uso di psicofarmaci, mentre da quando faccio uso costante di marijuana ho smesso di prendere gli psicofarmaci. Ma benissimo, perché se ti fa bene la marijuana e se qualche medico ti dice che ti fa bene la marijuana o la droga leggera, quello che vuoi, lo spinello, la canna, fai bene a farlo, per me dovresti essere libera di farlo fino all'infinito. Ma esatto, questo che c'entra col vino? Che c'entra col vino, con la tradizione? No, vabbè, il vino dai, fa su. Sempre bene, assolutamente, io stavo parlando di promo. Cioè non c'è marijuana. Una tradizione della marijuana? Marijuana nelle case degli italiani, come ha voluto far credere il signor della vedova. Dai, su, ragazzi. No, assolutamente no, forse magari lo diventerà. Magari lo diventerà, che ne so. Magari lo diventerà, esatto, magari lo diventerà. Vabbè, quello che ci volevi dire, che ti ha fatto bene la marijuana, che ti ha fatto bene la droga. Sì, esatto, mi ha fatto smettere di prendere degli psicofarmici e sono contro le lobby farmaceutiche, assolutamente, e spero che recentemente passerà alla Camera questa legge. Va bene, grazie, Carlo, io non credo che passerà. Carlo da Bari, vai. Grazie mille. Carlo, sì, Carlo, salve, buonasera. Dimmi, Carlo. Un salutone a Parenzo. Vabbè, dai, forza. Ciao, basta, con i saluti non ce ne frega niente, dai, forza. Niente, al 100% condivido quello che dice l'avvocato Taormina, 100%. Perché? Che vuol dire? Cioè, che cosa? Perché tutto quello che ha detto l'altra sera, io sono d'accordissimo con quello che lui pensa. Cioè? Perché io sono convinto che il 90% degli italiani... Cioè, facendo un'intervista con una telecamera spenta di qua e di là la pensa come Taormina, tutti la pensano come Taormina, perché adesso davanti a una televisione, davanti alla radio, tutti di qua dobbiamo fare sempre la parte dei bellocci di turno, è l'amore di qua, è l'amore di là, è gli omosessuali. Hanno fatto un casino quelli là con il Barilla là. Ma che c'entra quello un anno e mezzo ma fa? Cosa c'entra? Comunque, secondo te, la cosa interessante che ha detto Carlo. Carlo, un attimo solo. Una cosa che è interessante che hai detto è questa: che a telecamere spente molte persone la pensano come Taormina. Ecco, forse però, Parenzo, su questo non ha tutti i torti, Carlo. Beh, però, no, non è che questo giustifica io niente. Io non ho detto questo. Io ho detto, Carlo dice che a telecamere. Ma c'è uno spazio che è c'è uno spazio che è pubblico. Sì, ma non fare il filosofo adesso. La cosa fondamentale è questa. Carlo ha detto, a telecamere spente, le persone forse la pensano come Taormina. Molte persone la pensano come Taormina. con noi dopo tanto tempo, dopo tante vicende, Parenzo, dopo una tragedia personale, comunque la si voglia pensare sull'uomo e sulla sua carriera politica. Giancarlo Galan, buonasera, buonasera. Buonasera, un saluto a voi. Come vai Giancarlo, come stai? Male, malissimo. Male, molto male. Malissimo. Ma fisicamente o tutte e due anche psicologicamente? Fisicamente diciamo che non sto meglio di un anno o due fa, non sto benissimo come è noto, sì. La mia salute non è delle migliori, ma è quello che è più disastroso è l'umore, la vita. Come passi le giornate? Faccio il giardinaggio, leggo, scrivo. Ma non puoi uscire dalla casa, posso andare nel giardino. Ma si può dire che sei un po' depresso? Adesso non voglio addentrarmi sulla tua situazione. Si può dire che sono molto depresso. Molto depresso. Non è un mistero. Si può dire come? Cioè, ma perché non vedi, non vedi... Allora, ricapitoliamo la situazione. Ci sono, sono rimaste in piedi tre accuse. Ha fatto un patteggiamento Galan a due anni e dieci mesi. Due anni e dieci mesi per corruzione. Sono rimaste in piedi tre accuse, di quelle iniziali, e lui si dichiara innocente. Dice anche che il patteggiamento che ha fatto era, fatto per la figlia. Era inevitabile, questo l'abbiamo già detto, e però è stata diciamo la sua, se vogliamo, la sua mannaia, no? O sbaglio? Ma sì, d'altra parte, se uno mi chiedesse se sono pentito, direi di no, rifarei la stessa cosa. Cioè rifaresti perché... il patteggiamento? Ma per forza, perché quando uno è in carcere non ha alternative, perché chi sta male non è soltanto lui, è tutta la famiglia, è la figlia, voi lo avete detto, sì. Soprattutto la figlia che pensava che io non tornassi per odio nei suoi confronti, ma è tutta la famiglia che non ha di che sostenersi, sono bloccati i conti correnti, ci si deve affidare all'affetto, all'amicizia, alla generosità di qualche amico per sopravvivere. Cioè voi come famiglia, la famiglia Galan si affida alla generosità degli altri per sopravvivere, cioè non avete soldi? È bloccato tutto. È tutto. Ma bloccato. Quanto hai nei conti correnti, Giancarlo? 31.000 euro. Questi devono bastare per tutto, insomma. Ma sì, ma questi sono quelli che ci sono, che sono nel conto corrente. Dopo soprattutto, dopo c'erano i proventi, quindi, però è tutto bloccato, sono bloccati i conti correnti. Quando uno è arrestato, sì, ma la condanna è definitiva? Il giorno del patteggiamento, sì, sì. Tutto viene bloccato. Ma la condanna è definitiva a questo punto? Sì, è definitiva. La condanna è definitiva. Soltanto una possibilità, quella della revisione, è quella della revisione quando che vuoi perseguire tu? Certo, perché? Perché ti senti innocente? No, perché lo so. No, vabbè, io lo so che cosa ho fatto. No, cioè non hai rubato un euro. No, neppure uno. Non hai preso il famoso milione di cui si è parlato, di tangenti per il MOSE, non hai preso un euro. Un euro, ma c'è un motivo molto semplice. E qual è il motivo? Perché non c'era nessun motivo per cui dovessero darmi qualcosa per il MOSE. Che era un'opera statale, sì, alla quale io ero favorevole. Non c'è un solo atto della regione, difatti non mi viene contestato né un appalto, né una delibera, né un atto. Né Beh, però si sa che alle volte gli imprenditori, per facilitare la costruzione di alcune opere, hanno oliato, come si diceva in gergo, no, Galan? Ma non c'è bisogno di oliare quando uno è favorevole nel modo più totale, come ero io, sbagliando forse, ma io ero favorevole. Scusami Giancarlo, tu hai... Secondo, cosa c'era da oliare? Non dipendeva nessun atto da me e dalla regione. Tu ti senti innocente, hai patteggiato per tua figlia, diciamo la verità, per uscire dal carcere. Ho patteggiato per la mia famiglia, per la tua famiglia. Mia famiglia e per uscire da una situazione che rischiava di essere lunga. Lunga. E si può dire... Non è vero che in Italia non c'è la detenzione preventiva. No, ma nessuno dice che è il contrario, c'è assolutamente la detenzione preventiva, anzi forse andrebbe ritoccata qualcosa da quel punto di vista, però io voglio dire questo, tu siccome dici di essere chiaramente molto depresso, non vedi un tunnel diciamo in questa vicenda e soprattutto non sai cosa ti aspetta dopo, c'è la questione del sequestro della casa che è drammatica, cioè rischi di perdere la casa, devi restituire, o com'è la storia, o trovi i soldi? O trovo i soldi, oppure... Quanti soldi? 2.600.000 euro. 2 milioni entro quanto tempo? Il 2 di ottobre. Cioè cioè fra poco, insomma, sostanza. Cioè, o trovi oppure, entro due oppure devo dare la casa, che è tutto ciò che io ho costruito nella mia vita. Questa casa, diciamo che molti... devi venderla. No, non devo venderla. Viene sequestrata, requisita. Non ho il termine esatto. E dove vai? Requisita, confiscata. Ma dove vai? Non lo so, proprio non lo so. Ma per te sarebbe una perdita drammatica, una perdita... Perché la casa è quello che uno costruisce in tutta la sua vita, io non ho mica costruito nient'altro. Questo con il mio lavoro... Molti dicono che il frutto, anche questo è il frutto di tangenti, molti hanno detto, la casa... Facciano il processo, c'è in atto un processo. Io però sono ancora convinto di una cosa, l'ho sempre detto Giancarlo, quando nel periodo in cui non ci siamo sentiti, sei stato ospite tante volte alla Zanzara, è vero, la figlia eccetera, però se uno è veramente convinto di essere innocente, veramente convinto di essere innocente, come credo che tu sia, io adesso non conosco bene nei dettagli gli atti, uno forse ha il dovere anche per i parenti, per la figlia, di andare fino in fondo, di dire voglio combattere, cazzo, fino in fondo e dimostrare la mia innocenza. E questo che un po' mi stupisce, cioè il patente o no? Poi non mi posso immedesimare in quello che hai provato quei giorni in carcere, ecco, per carità. Perché questo è l'importante: chi non è stato in carcere non può capire che cos'è il carcere. Sei chiuso, fuori dal mondo, non parli con nessuno, in isolamento totale. Non sai. Ma tu veramente non hai nulla da rimproverarti in questa storia del Mose? Nulla da rimproverarti? Nella storia del Mose, no. Non ho nulla da rimproverarmi, perché non ho fatto nulla per il Mose, proprio nulla, e anzi lo dice chiaramente anche uno degli miei accusatori, per così dire, come Baita, che non c'entravo nulla. Senti, tu hai pensato a delle cose tremende anche sulla tua vita nei mesi scorsi o no? Non hai mai pensato di fare atti estremi? Ci ho pensato molte volte e continuo a farlo. Ma veramente? Certo. Ma e come ci pensi? In che modo? Ma adesso sulle modalità lasciamo stare, ma ci ho pensato moltissimo, ci sono modalità molto semplici. Beh, io non sono esperto di queste cose, che fai? Vai su internet, sul web e ti informi? No, basta prendere una delle corde con cui ancoravo la mia barca e ci pensi ancora? Si fa un nodo, sì, ci penso. E poi? No, beh, adesso però mi fermo qui, non voglio parlare di questo. No, però chi è che ti blocca? Tua figlia forse? Cioè, sì, tu... solo lei. Cioè, mi blocca. Cioè, sopravvivi solo per tua figlia? No, mi bloccano quelli che mi hanno salvato finché ero in carcere, che sono stati prima di tutto mia moglie e mia figlia. Vabbè, appunto. Questo. Poi gli amici, quelli che si sono dimostrati tali, pochissimi, sono scomparsi, chissà, quasi tutti quelli che venivano, ma alcuni e molti amici sono rimasti, e questo è stato un segno importante. Però si può dire che dentro Forza Italia, scuro, sono scomparsi tutti. Lasciamo il Corriere della Sera, oggi mi ha intervistato e io ho letto. Detto omissis, posso dire la stessa cosa, credo che non conta nulla qui per davvero l'appartenenza politica, contano come sempre gli uomini, uomini e le donne. Berlusconi ti ha deluso, ti ha chiamato, e io devo dire che ho avuto sorprese positive, ma ho avuto anche sorprese sconcertanti e avvilenti. Berlusconi è tra queste? No, tutt'altro. Con Berlusconi ci ostacolava anche il fatto che lui era i servizi sociali, sì, esatto. Io ero detenuto fino a due. Però scusa, tornando per un attimo a quello che ci hai detto prima, scusami, però, Giancarlo, però, tornando per un attimo. Sì, adesso te la faccio dire che c'è la pubblicità. Però ti voglio chiedere una cosa: si può dire che tu sei vivo grazie a tua figlia? Perché poi adesso ci hai raccontato. Sì, grazie. Si può dire, è la grande parte della verità. Altrimenti l'avresti fatta finita. Sì. Allora fermi tutti, sempre con Giancarlo Galan in diretta da casa sua, dove gli arresti domiciliari 800 24 00 24, casa che potrebbe essere requisita, come avete sentito, all'inizio di ottobre. Pubblicità. Pubblicità. La Zanzara. Ti sto apprezzando, vi sto apprezzando. Allora, siamo qui alla Zanzara 800 24 00 24, e con noi Giancarlo Galan, che è stato, come sapete, presidente della Regione Veneto, poi coinvolto nella vicenda del Mose di cui stiamo parlando. è ancora deputato. Pochi giorni fa è stato, diciamo così, alla presidenza della Cura. Una cosa mi ha colpito, Galan, però nei mesi scorsi, lo sai Giancarlo, io ci conosciamo, però siamo due persone che si parlano in faccia tranquillamente, senza problemi, anche con critiche. Perché non hai mollato prima queste robe qui? Cioè la presidenza della Commissione Cultura. Adesso poi parleremo anche del tuo ruolo di deputato, perché sei ancora deputato in Parlamento pur essendo domiciliari. Ecco, perché non hai lasciato prima la presidenza della Commissione Cultura? Il presidente Boldrini non so che ha detto, che non hai avuto senso dello Stato, cose del genere. Io vorrei che non si facessero speculazioni su questo, come sono state fatte. Allora, sia intanto chiarissimo che io non ho percepito una sola lira. Vabbè, certo, per non c'è la presidenza della commissione. Sì, ma di nessun genere, nessun vantaggio. Anzi, paradossalmente lo Stato ci ha anche risparmiato, perché la Flavia Piccoli, che ad oggi è diventata presidente, lo faceva da vicepresidente senza percepire. Ho capito, però la commissione non aveva rimaneva la carica, diciamo. E comunque io non l'ho fatto perché appartengo ancora per poco tempo, ma appartengo a un'istituzione che si chiama la Camera dei Deputati. Ho capito, però non c'è. Mi sarei atteso che di poter, come prevede il regolamento, di poter parlare alla Camera dei Deputati per sostenere le mie ragioni contro il mio arresto. Vabbè, quello è un altro discorso, però. Ma è fondamentale. La presidenza della Commissione Cultura, tu comunque non la potevi esercitare, potevi anche lasciarla. Ma non la potevo esercitare per una decisione del Parlamento senza neppure consentirmi il diritto di parlare. Ma per esempio, perché che io ero con una gamba ingessata, ma soprattutto con una trombosi venale. Ma perché non ti dimetti adesso da deputato? Perché non ho nessuna intenzione di farlo, perché io sono innocente, perché decadrò in base alla Severino se sarà vera, ma perché dovrei dimettermi? Cioè, perché le persone dicono, io continui a prendere lo stipendio da deputato, se agli arresti domiciliari decadrai, eccetera, e da un sacco di tempo che non metti piede in Parlamento... Mi lasciano andare in Parlamento? Non è mica colpa mia, se non io sono stato modello quando lo potevo fare... No, ho capito, però sei stato in carcere, adesso sei domiciliari, è praticamente un anno che prendi lo stipendio senza andare in Parlamento. Ma non dipende da me, vi assicuro che non resterei qui ai domiciliari. No, ma questo non c'è dubbio. Se potrebbero convocare le commissioni di cui fa parte a Cinto Euganeo, a casa sua. Vabbè, no, adesso... Adesso, scherzare su questo è pesante. Non è una battuta, è per dire... Ecco, no, guardi che tanti... Per esempio Frigerio ha fatto i servizi sociali come alla Camera dei Deputati. E non dipende da me se non posso frequentare. E d'altronde non prendo alcun gettone di presenza. Però scusami Giancarlo, lo stipendio continua a prenderlo. Lo stipendio continua a prenderlo. Senza quello stipendio come camperesti? Ah, non lo so, non camperei, penso. Cioè tu lo stipendio da deputato che prendi adesso, prima da carcerato, poi ai domiciliari, ti serve per sopravvivere? Mi serve per sopravvivere, la mia famiglia per sopravvivere a me. Certo. Come campi adesso? Cioè, male. No, dal punto di vista economico, cioè nel senso in quella villa là enorme da mantenere. Malissimo. Cioè? Fammi un esempio. I miei proventi si sono dimezzati. E quindi ho venduto qualcosa, quello che sono riuscito a vendere, che non è poi molto, ho venduto un campo che avevo qui a fianco, ho venduto quelle poche cose, le automobili, le due auto storiche che avevo, che mi avevano regalato gli amici al mio matrimonio. Ecco. Cioè, quanto hai fatto da queste vendite? Saranno in tutto 70.000 euro. Ma fai anche dei risparmi a casa, che ne so, quella casa così grande, enorme, eccetera, che ci fai con quello? E cosa devo fare? Che ne so, risparmi sul riscaldamento? Con 40 anni di lavoro. No, ma io ho guadagnato tanto nella mia vita, tanto, perché, e torno a Berlusconi per un attimo, lasciatemelo fare, perché io non sono per nulla deluso. Spero, conto in un suo aiuto nel futuro, perché aiuto da che punto di vista? Non c'è un rapporto, non sono stato un esponente di Forza Italia. Ma aiuto da che con punto Berlusconi, di vista? In azienda, io lavoro da 30 anni, abbiamo fatto cose importantissime in azienda. No, ho capito. Con lui e dopo ero presidente del Veneto. Certo, tu dici conto sul suo aiuto, certo, ti piacerebbe di nuovo lavorare con lui, farti dare una mano da questo punto? Penso di sì. Anche tu che potrebbe io tornare a lavorare a Mediaset, insomma, a fare quello che ha fatto a Publitalia, avere un'opportunità di vita. Questo chiedi a Berlusconi. Ma diciamo, io chiedo a tutti questo. Vabbè, però Berlusconi anche Berlusconi, con Berlusconi, per i 30 anni che ci sono stati di lavoro assieme, penso che non mi deluderà affatto. Senti un attimo, ma è vero che adesso non voglio entrare nei dettagli della tua vita privata, anche se queste cose mi piacciono sempre perché tratteggiano un po' la persona eccetera, che addirittura sei costretto a risparmiare anche sull'aria condizionata, sul riscaldamento? Sì, ma sono miserie, non l'ho accesa, sono stato senza aria condizionata. Ma sono miserie in che senso? Così, che sono tristezze. Non so, sono tristezze, certo che sono tristezze, non c'è dubbio, ma sei stato costretto sì, a farlo? Sì, anche questa di tristezza. Perché costa troppo? Sì. Parenzo, è incredibile. Vabbè, no, ma è uno spaccato. No, no, no, no, ma certo. Bisogna no, poi la cosa più inquietante è che lui continua. Io ho avuto una vita con centi molto alti e ne ho goduto, adesso è un periodo basso e speriamo che col tempo migliori la situazione. Senti, voglio capire una cosa. Non mi meraviglia questo, insomma, finché le cose vanno bene sì. È un conto, se vanno male ci si adatta. Allora, tu dici, nei tuoi conti alla fine non hanno trovato un euro, no? Allora, giusto? No. Giusto. Nei miei conti, in nessuna sì. indagine che hanno fatto, in nessuna rogatoria, perché? Perché non ci sono. I grandi ladri allora del MOSE, chi sono? Cioè, sono i grandi ladri del MOSE? Cerca di riassumermi questa cosa in modo comprensibile, secondo te, naturalmente. Sì, lo faccio in modo comprensibilissimo. Dimmi. Ma io non, il mio interesse non è quello di accusare gli altri, però vabbè, siccome... questo è un compito di altri. Vabbè, allora... Il mio interesse è quello di dimostrare a quelli che mi hanno avuto fiducia in me e soprattutto a mia figlia che non ho preso una lira e che nessun atto è stato fatto quando eri presidente del Veneto sì. Neanche dopo quando ero ministro sì. tanto meno allora? Ovviamente quindi il sistema per così dire per ammissione stessa del suo grande protagonista cioè Baita sfruttava alle aziende facenti parte del consorzio sì. 120-130 milioni all'anno sì. anche ponendo che fossero veri tutte le accuse che hanno fatto sì. il milione a me, quello all'altro, a questo, a quello, si giustificano 5 milioni. Dunque restano? E gli altri 115? Cioè 115 milioni di superfatturazioni? È quello il buco colossale. E chi se l'è intascato? Chi se l'è intascati? Chi si viene intascato? Io andrei a fare qualche rogatoria sugli imprenditori. Ah, gli imprenditori. Qui, per dirla anche con più precisione, ci sono imprenditori che non sapevano neppure che il loro direttore generale faceva decine e decine di milioni di fatture false. Dunque, i ladri veri, mentre Galan è il mostro, diciamo, della vicenda del MOSE, i ladri veri, tu dici, sono gli imprenditori. Ma non qualche parte questi soldi sono andati, certo non sono andati nelle tasche di Galan e di Orsoni. Parenzo? No, ma dico che la cosa che più mi colpisce è che se è vero la ricostruzione di Galan, è una rapina giudiziaria quello che gli hanno fatto. Cioè, attento, adesso non voglio essere brutale, ma Galan continua a dire sono innocente. Non ho preso una lira, gli hanno sequestrato i conti, sequestrato la villa. È psicologicamente in condizioni come può essere una persona che è detenuta, che è stata in carcere, che sta male, che è ferito, che non ha più il suo lavoro, la sua dignità, i suoi amici, la sua vita. Cioè, se tutto questo è vero al netto dell'accordo che ha fatto, no? Per uscire. Si chiama rapina giudiziaria, però. No? Ma non lo so, però. Davide, scusami, onestamente, non ho alcun astio, non so perché forse avrei motivo di averlo, ma non ho alcun astio la vita, contro i magistrati, gli inquirenti. La cosa che mi stupisce, francamente, è che nessuno abbia avuto la curiosità di interrogarmi. Io non sono mai stato interrogato. Senti, la politica per te è finita? Assolutamente morta, sì. Cioè non hai più alcuna intenzione. Caso, assolutamente. Mi raccomando, è qui inevitabilmente registriamo. Registriamo tutto qua. Mi ha deluso troppo. Ma oggi chi voteresti oggi? Non voterei e difatti non ho votato. Renzi? No, non voterei più. Non ti interessa più? Non mi interessa più. Non ti fa quasi schifo, diciamo? Non mi interessa più. Ti fa schifo? No, non mi fa schifo. È stata una cosa bellissima nella mia vita. Però ti ha rovinato. È una cosa anche bellissima. Ma diciamo che ha un torto, quello di esaltare la meschinità e la miseria degli uomini e delle donne che la fanno. Ti ha rovinato. Mi ha deluso un po' troppo. È rovinato anche? No, rovinato non è stata la politica a rovinarmi. A rovinarmi è stata un qualcos'altro, che sia andata a finire così, che Galan sia il mostro solo lui. Chi ti ha rovinato? Te stesso? Conviene, no? Conviene a tanti. Grazie, Giancarlo, a presto. Ciao, ciao. Vi saluto. Ciao, ciao, ciao, grazie, ciao, arrivederci. Ciao. Allora, andiamo in provincia di Pescara, vai Vincenzo, vai 800 24 00 24. Beh, sta diventando un grande confessionale questa trasmissione ogni tanto, caro Parenzo, il confessionale. Beh, mi ha stupito molto anche la voce il di Galante. Beh, messo non bene, non bene. La Vincenzo, voce... provincia di Pescara, ma qui è anche un grande confessionale dove la gente si apre, confessa, spesso anche che si vuole suicidare, però, vabbè. Capito? Ma guarda che il pensiero del suicidio, in realtà, che molti ci rimproverano questo, fate parlare la gente e fate. No, vabbè, questo. Beh, è una cosa che attraversa tante persone, no? Chi, naturalmente c'è chi pensa, no, e subito dopo cambia idea, c'è invece chi ci pensa in maniera un po' più. Io no? Per ora, per fortuna, non mi è mai capitato di pensare. No, ma nemmeno a me, che c'entra, la vita è troppo bella, però puoi pensare a un certo punto, beh, la faccio finita, no? Cioè, non è un pensiero che magari può attraversarti per due secondi. Beh, una ci sono persone come Galan che ti ha detto che ha avuto una vita straordinaria, in cui ha guadagnato tantissimo, è stato anche un uomo molto potente, no? Sì, e beh, improvvisamente certo. Si ritrova addirittura a non sapere. Scannato. No, se mangerà domani, perché questo sì, è. Sì, no? Sì. Vai, Vincenzo, vai, provincia di Pescara. Giuseppe, mi fa parlare. Dimmi, Vincenzo. Dai. Sì, ascolta, sì, siamo a parte che Galan che dà lezioni su come ci si suicida, è bellissimo sentirlo. Comunque, simpatico. Di tutt'altro. Simpatico, cosa, drammatico, non simpatico. Vabbè, dai, forza, si è divertito. Sì, io stranamente volevo spezzare una, due, mille lance a favore di David Parenzo, perché non è possibile, secondo non me serve. Non è non serve, vabbè, David da lei poi temo non serve, però avanti, dai. Perché da me non serve? No, no, andiamo avanti, prego. No, no, uno, hai trovato uno che ti voleva difendere, perché non è possibile, secondo me, che il 90% di quelli che telefonano, oppure dai social network, comunque tutti quanti contro Parenzo, non si sa nessuno il motivo, non si sa il perché. E che cavolo, va bene pure che io capisco che voi dovete recitare un copione, magari non c'è nessun copione che si recita qui, se non hai capito bene, qui non si recita nessun copione. Beh, tu dici, allora se non si recita nessun copione, allora alcuni ascoltatori hanno capito male, perché non è com'è possibile che tutti quanti dal nulla insultano Parenzo, sognandosi addirittura c'è il minimo della cultura che c'ha sto povero David, senza motivo, senza nulla, cioè non tu ci diverti e vabbè ho capito. Vincenzo, vuoi difendere Parenzo, che però si difende da solo, vabbè, se si difende, ma è talmente bravo che ce la farà. Massimo D'Ancona, grazie. Massimo D'Ancona, vai Massimo. Sì, volevo dire a quei amici di qualcuno che sta lungo le autostrade a bussare sul camion, sì, che estate non si dorme, e anche loro che bussano è come suonasse il campanello a casa sua. Allora fermi tutti, Massimo mi sembra che sia un camionista, giusto? Sì, giusto. Camionista, dove sei in questo momento? Sto attraversando Bologna. Stai attraversando Bologna. Di solito quale piazzole frequenti di più, oppure tutte lungo le autostrade italiane? Quando è finite le 9 ore, dove sono? Più o meno, vabbè, ma le piazzole che frequenti di più, quali dalla sono? La Toscana, la Lombardia, un po' dappertutto. E non ho capito, i gay ti rompono i coglioni? Loro bussano. Sì. Tu dormi. Sì. Giusto, sì, è come se uno suonasse il campanello di casa. Ma quante volte ti succede, scusami Massimo? Molto spesso. E che succede dopo? Ti bussano, che fai? Gli faccio vedere il cortellaccio. Addirittura? Sì, perché io porto della merce che c'ha un certo valore. Ma che ne sai che sono froci, scusami Massimo? Perché quando li vedo... Li riconosci come Taormina, li riconosci in faccia che sono froci, che fanno? Fanno decenni, qualcuno viene con l'arnese di fuori, qualcuno ti fa vedere la chiappa. Vabbè, dai, su. Ma è davvero così la situazione? Sì, però io ogni volta che me lo raccontano non ci credo. Cioè, con questo caldo, sì, se siete sveglia, dormi un'ora, sì, poi questi ti bussano, ti svegliano, non ridormi più. Capisco che per un camionista effettivamente il tormento dei gay nelle piazzole possa essere nefasto. Se ti chiami a qualcuno, sì. non interviene. È inutile Parenzo che dice sempre chiami la polizia, chiami i carabinieri, chiami EGUA. Non ci interviene mai nessuno. Fermi tutti. gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, pubblicità. La Zanzara. Voi che andate a prostituzione, vergognatevi, miserabili. Siamo qui, 800 24 00 24, non ci mollate, Parenzo, popolo della radio, abbiamo ancora grandissime cose, tu non hai idea di quello che succede adesso, Parenzo, qui dentro, non hai la minima idea. Qualcosa so e sospetto, ma andiamo avanti. Non hai la minima idea. No, so tutto. Non hai la minima idea. Luca da Modena, no, non sai fino in fondo non sai. So Luca che da Modena. Sarà un personaggio discutibile. Beh, un personaggio che ci ha mandato una lettera meravigliosa molto nei giorni. Discutibile, ma anche molto discutibile. Una benemerita, direi, un personaggio benemerito. La benemerita intanto è l'arma dei carabinieri. No, anche questo personaggio è una benemerita. Vabbè, beh. Luca da Modena, dai Luca. Ciao Giuseppe, dimmi, io ho chiamato per due motivi. Primo, perché siccome mi piacciono le donne, volevo chiedere se potete far sentire più spesso quella ragazza che dice qui siamo alla frutta, ha una voce troppo sexy. Ma quella che è Flavia Vento, amico mio, è Flavia Vento. Ah, ma hai visto a proposito Paolo Mieli nudo? No. Beh, siamo veramente al top, Paolo. No, d'accordo, se tu vai a spulciare nel web e vedi Paolo Mieli nudo a Sabaudia. Nel web, basta comprare un web. Ma no, beh, è più facile, non mica devi comprare i giornali, vai nel web e vedi le foto, senza bisogno che ti compri Kio o Novella 2000, scusate, abbi pazienza, se uno non si vuole comprare Kio o Novella 2000. Nudo, si cambia un costume, non nudo, una roba nudo, così. Nudo in spiaggia a Sabaudia, una vista non particolarmente, cioè, una vista facendo una docetta e cambiando no, costume. No, ma è sulla spiaggia nudo, signor Paolo Mieli, non è una vista proprio meravigliosa. Però certo, l'uomo ha la sua età, per carità, cioè, ho degli altri gusti. No, ma anch'io però ho visto. No, perché me l'hai fatto ricordare per Flavia Vento, che non l'aveva riconosciuto quando l'hai incontrata a Sabaudia. Ho raccontato l'altro giorno questo episodio. La professoressa maestra Flavia Vento ha incontrato il dottore Mieli lì a Sabaudia e non l'ha riconosciuto. Ha detto: ma che fai, il regista? Che come fai? Regista? Sì, ha detto così, ma non ma ti ricordi faccia, quello che dico? Cioè, ma che fai, il regista? Che ma lui fa sicuramente lei? Ha sorriso. Sì, si è messo a ridere. Poi qualcuno ha detto: vado a vedere su Google. Oddio, che figura, che figuraccio che ho fatto. Ma che hai fatto anche il presidente della RAI? Perché aveva letto la prima cosa, presidente in corsa per il presidente della RAI, no? Ma che hai fatto il presidente della RAI? No, è l'unica cosa che non aveva fatto il presidente della RAI. Vabbè, Luca, allora? No, guarda, io mi rifaccio anche all'argomento della chiamata del dottor Taormina di ieri sera. Dimmi. In sostanza, sono un divorziato con un figlio al quale ho chiesto se era contento se trovavo l'amorosa. E lui mi ha detto solo: fa, se io rimango il tuo bambino, sì. E poi gli ho provato a chiedere: e se trovi il moroso? Fa, papino, ma cosa dici? Fa, gli uomini devono andare con le donne. No, con gli uomini. Vabbè. Allora, questo qua mi ha confortato. Ma è normale, ma il bambino non è che pensa che gli uomini debbano andare con gli uomini, ma è assolutamente normale. Io non gli direi affatto il contrario, non sono tra quelli che direbbe al bambino: no, ci può essere anche l'amore omosessuale. No, ma tranquillamente lascerei cadere la cosa. Non c'è, quanti anni ha questo bambino? 8. Ma a 8 anni che cosa vuoi dire? Cioè, se mia figlia mi dice le donne devono andare con gli uomini e viceversa, io non è che gli dico: no, attenzione, cara Viola, c'è anche l'amore omosessuale, le donne possono andare con le donne, gli uomini con gli uomini. No, non glielo direi, perché è totalmente inutile dire, perché inutile. Lo apprenderà facilmente dalla vita che esiste anche l'amore omosessuale, senza bisogno che io a 8 anni gli dico: no, c'è anche l'amore gay. Ma chi se ne frega? Ma io ma beh, ma se gliel'hai detto, ma fai, ognuno fa come vuole, però non è che può essere, non è che chi non lo fa qualcuno glielo deve dire al posto mio. Ma figuriamoci, appunto, ma io non sarà la vita, mai. La vita guarderà le persone che si baciano per strada, per fortuna, e altre cose ancora. Ma le cose si possono anche spiegare. Sì, ma perché spiegare diventare a un bambino di 8 anni che esiste l'amore omosessuale? Ma chi se ne frega? Ma perché quando uno legge una grande poesia, quando uno legge adesso 8 anni, no, ma vale, appunto, no, a 8 anni sto Wilde, dicendo, a 8 anni, a 10 anni, ma ho capito, ma perché devo chiedere o leggere poesie di Oscar Wilde a 10 anni? Ma per fortuna ma devi leggere, ma magari ma no, ma ho 10 anni si leggono un altro Topolino, un fumetto, un libro per il bambino, no, Oscar Wilde, amico mio, dai, su. Ma non capite che Topolino non può baciare Topolino? Ma va benissimo, guarda, va tutto bene. Topolino deve baciare solo, sì, Topolina? Vabbè, allora, hai ragione tu. Allora insegniamo anche ai bambini di 8 anni che esiste l'amore omosessuale, va bene. No, allora, ma insegniamo, ma se glielo vuoi dire è la normalità, cioè è la vita. Ma ho capito, ma se glielo vuoi dire tu diglielo, io non glielo dico, perché queste cose si apprendono da soli, le apprendono da soli. Chiariamo. Vabbè, Luca, cosa vuoi dire? Però aspetta, andiamo da Luca. No, io spero che i bambini, insomma, della sua generazione non abbiano assolutamente alcuna forma di intolleranza, ma voglio sperare che, insomma, si riporti al centro l'eterosessualità. Penso che a volte la società abbia vissuto un pochino al di sopra delle proprie possibilità. In campo, questo che c'entra, scusa, non ho capito. Quindi voglio sperare che questa situazione qui, in cui che la norma sia essere gay, ma non è la norma. Ma non è la norma essere gay, è una stronzata. Non è vero che la norma è essere gay. Non è vero? Perfetto. Ma chi lo dice? Questa è la stronzata che dicono quelli che si oppongono alle unioni civili o alle unioni gay. C'è la moda di essere gay, ma non è vero, è una stronzata, non c'è nessuna moda. L'omosessualità c'è sempre stata, adesso diciamo viene fuori in maniera più prorompente, in modo più visibile, ma c'è sempre stata l'omosessualità dappertutto e ovunque. Per cui il pericolo di un dominio omosessuale è una puttanata clamorosa. Non esiste il pericolo di questo dominio, non esiste, chiaro? Ciao, okay, ciao. Io sono d'accordo. Ciao Giuseppe, grazie. Ciao. No, you could have been a wonder. Beh, amico mio, abbiamo un grande personaggio collegato, una persona benemerita che fa un mestiere in cui fa del bene a molte persone. Fa del bene. No, che infermiere? Che c'entra l'infermiera? L'infermiera, il certo. Medico? No, il medico, no. La badante? No, non fa la badante. La prostituta. La prostituta. Bene, è una prostituta che ci ha scritto una lettera molto bella mail. Dalla Polonia, ha vissuto in Italia tanti anni, è anche ebrea da quello che so, dunque mette insieme un po' di cose. Che c'entra questo? Vabbè, così, en passant. Donatella, buonasera. Ciao, buonasera. Come stai? Praticamente prostituta si può dire anche badante, perché noi badiamo ai nostri clienti, no? Beh, certo, badante anche, sì. Allora io vorrei dire che nella tua pagina, non so se Facebook o internet solamente, ci sono scritti i servizi che fai. Adesso non entro nel dettaglio, però mi ha colpito un servizio: parlare sporco c'è anche. Poi c'è anche sesso di gruppo ed esperienza da fidanzata. Che vuol dire esperienza da fidanzata? Esperienza da fidanzata sono questi uomini che vengono, che cercano un rapporto più soft, come se fosse con una fidanzata, perché magari la moglie lo tratta in un modo molto freddo. Guarda, ultimamente ero con un uomo che è un manager di un locale molto chic in Polonia, no? Sì. Potrebbe avere tante di ragazze, a parte che ce l'ha la moglie, con ogni là da 2 mesi. Quindi è normale che va a cercare la compagnia, e comunque tutti, cioè, ma dicono che l'esperienza da fidanzata viene pagata pure, cioè ti fai pagare anche l'esperienza. Sempre viene pagata, però io ho tanti clienti che mi tornano indietro proprio perché si trovano bene, perché possono parlare delle sue. E costa di più fare. Certo, ma costa di più fare l'esperienza di fidanzata piuttosto che scopare? No, costa sempre. Quanto? No, forse ti sforzi anche di meno. Ma quanto è la tua tariffa? Praticamente, qua in Polonia, quella che va per la maggiore sono 200 zloty che è 50 euro. Cioè 50 euro all'ora? Ci sono anche quelle che chiedono 800 zloty, quindi... E che ne so, okay. 800 zloty polacchi, amica mia, che ne so io. 200 euro. Ma perché tu ti fai pagare 50? Scusa, che sei di serie B? Sono quelle che... Com'è? E perché ti fai pagare 50? Che sei di serie B? Perché quando ho cominciato sono capitato in un posto così. Ma no? quanti anni hai? Era questa, avevo tanti clienti che si sono abituati, e comunque, guarda, è meglio fare 6... a 50 che una settimana a 200, o no? Che ne so, meglio fare 6 a 50 che una settimana a 200. Beh, certo, non c'è dubbio. Senti, ma quanti anni hai? Comunque, se vado in albergo, vado minimo per 2 ore più 100 zloty taxi, quindi sono già quasi 150 euro. Adesso non ci dica tutto il tariffario. No, però no. La casa chiusa, scusa. No, però... sì, adesso comincia a mettere tu. Lo so che nella Torah c'è scritto che non ci sarà matrimonio tra le figlie di Israele. Comunque ci sono vari casi della vita. Cioè, che vuoi dire con questa cosa? Che lui dice che nella Torah tu dici. Io non ho detto niente, per carità. No, tu dici, no, la signora Donatella, ebrea tra l'altro. Ma non lo so, ebrea polacca, dice che praticamente le donne non possono essere prostitute, giusto? È per questo? Perché nella Torah non possono essere prostitute. Ah, è per questo che tu sei trovato avvelenato con la prostituzione, no, Parenzo. Ma non sono avvelenato per niente, ognuno fa quel che gli pare, adesso figurati cosa mi interessa. Di cosa. Beh, io non ho capito, tu ti senti un po' una benefattrice o no? Certo. Certo, una benefattrice. Anche visto che tanti tornano da me, sì, vuol dire che si trovano anche bene, no? Quanto guadagni al mese? Oh, guarda, c'è un proverbio in polacco che dice che soldi dal culo non stanno mai insieme. Soldi? Quindi sì, guadagno tanto, però alla fine spendo anche tanto. Soldi? Non ho capito bene. Soldi, soldi guadagnati con culo? Non con culo nella... Sì, ma ho capito. La figa? Non stanno mai insieme. Non sono mai... Come soldi di spacciatori, come soldi di ladri. Abbiamo mano larga. Ah, ho capito. Non restano mai. Non restano mai. Cioè, si disperdono. Sì, sì. Cioè, spendi un sacco di... Vabbè, ma quanto guadagni al mese? Che ne so, 10.000 euro. 10.000 euro. Sì, 10.000 ci arrivo. 10.000 euro, forse di più. Dipende dal mese, dipende, perché come io sono indipendente. Tutto in nero, no? Comunque, tutto in nero, giusto? Certo, scusa, io pagherei anche le tasse, mi danno la copertura sanitaria, certo, mi danno il fondo pensione. E non sei sfruttato da nessuno? Normale, ma se io non ho niente, devo pagarmi l'assicurazione, pago 200 zloty al mese, sì, privata, 50 perché euro. Se non copre ospedale. Comunque, capito? Donatella, la realtà è che nessuno ti sfrutta, vero? No, nessuno mi sfrutta. E hai scelto di fare la prostituta? Io quando ho cominciato a lavorare, sì, non sapevo come funziona, è 2 anni e mezzo che lavoro io. E l'hai fatto per guadagnare in pratica, perché così... Cavoli, lavoravo in call center, facevo la maga, praticamente lo stesso call center, fai o la maga o la linea erotica. E quanto guadagni? Se dicevo in giro che lavoro in call center a linea erotica, sai che cosa pensavano di me? Che sono una mignotta. E allora, allora tanto va... E la Mi pagavano 7 zloty. E quanto? Allora? Cioè, sai cos'è? 2 euro. 2 euro allora. Lì invece 50, allora fammi fare la mignotta sul serio, quello dici tu, no? Ma sai come giravo in cassata anche dopo separazione, ero in... Vabbè, aspetta, ferma lì. In manicomio io per cosa? Lì, Donatella, prostituta, sì, ebrea polacca, tra poco. Siamo ad alti livelli qua, La Zanzara. Miserabili, non uomini, miserabili. E per di più anche impotenti, secondo me. Allora, Donatella è una prostituta polacca, ebrea, che parla italiano perché ha avuto un marito italiano, è tornata in Polonia, ha lavorato in un call center, poi ha iniziato a fare la prostituta per ovvi motivi, perché si guadagna di più, lo ha detto prima, ed è avvelenata con Parenzo, caro Davide, ed è per questo che ci ha scritto, per questo che l'abbiamo contattata in quell'eremo polacco dove lavora, in quel posto lontanissimo dove lavora in Polonia. E Donatella, raccontami, Donatella, perché sei incazzata con Parenzo, dimmi. Perché dice un casino di stupidità. Perché quando racconta di questo, che queste povere ragazze sono sfruttate, non è vero, perché gli sta bene, perché io ho conosciuto una che praticamente lavorava per suo marito, lo amava fuori turni di lavoro, gli portava i soldi nei denti quando finiva a lavorare. Quindi a qualcuno sta proprio comodo così, capisci? Vabbè, però ci sono non pure sono sfruttate, vogliono essere sfruttate. Ci sono alcune, poi, se una guarda, se una si vuole liberare, gli italiani sono brava gente, prima o poi troveranno un cliente. Guarda, io capisco di andare che la a fare signora con lei le porta in questura. La signora polacca, che si chiama dalla Polonia, è molto simpatica, col tariffario tutto chiaro, benissimo, sono contento per lei, guadagna, si diverte. Beh, non è che guarda tariffario, annuncio su chiamami è 300 euro, ma adesso, le ragazze vogliono 300 euro. Ma a me non interessa su quanto fa lei, è 200 zloty, io lo prendo 200 zloty, quindi ancora prendi con proporzione. Questi slot non mi interessa. Slot. Cosa ti interessano? Le shekel? sono 10% in più. Neanche i shekel israeliani, non mi interessa nulla, meno di nulla. Mi interessa. Tu dici un casino di cose cattive, ma lo sai che la Sohara è un grosso ma peccato? Ma non dico nel senso, non dica parole che non sa, non dico niente di cattivo. Lei può fare il suo mestiere in ebraico. Tu sei cattivo, dice... tu sei cattivo verso le persone. Tu, ma non sono difendevi Marino ieri, che ha offeso una povera signora. Che ma non che Marino dovrebbe avere più rispetto perché lui ha studiato, lui è un medico, dire... lui si dovrebbe limitare, sapere come freno. Però signora, scusa Donatella, scusami un attimo, lo faccia dire in ebraico, lei continui pure a fare la zona tranquillamente. Dai, però parlate in italiano, su, forza, dai. La zona sarà tua madre. Oh, beh, non si permette neanche per niente. La puttana, dice. Che allora, cosa? Perché ne dici zona? Beh, in ebraico si dice così, come si dice? Scusa però Donatella, sei una zoccola oppure no? Sei una prostituta, amica mia. Non è che fai... Perché ti offendi se ti dice zona? Perché io trovo io sono praticamente badante. Sei badante. Sono infermiera si dice così però. Ma beh, capito, ma sono miserabili gli uomini che vengono da te, come dice Parenzo, miserabili? No, non sono miserabili. Non sono miserabili. Ma no, ma quelli che manda lei, evidentemente lei non è sfruttata, è contenta, è felice del lavoro che fai, e sono molto contento. Io parlo sì, di ero incazzata, dopo divorzio ero incazzata, ho occupato per un anno perché mi pareva che mi volevano sfruttare tutti, no? Invece adesso sono contenta, scopo tanto, io ho 47 anni, no? Ce l'ho clienti dei 25, dei 28 anni che mi dicono che sono bellissima, e poi in concesso non sono, l'avete visto le foto? Beh sì, ho visto proprio niente. Vai a vedere Donatella, magari ti appassioni Parenzo, no? Ma non magari, mi interessa, magari fai una gita in Polonia. No, ma lui è stinchio di santo. Stinco di santo. Anzi, stinchio di maiale. Ma sicuro non mi sono già soddisfatto, non mi interessa la allora, materia. Senti, non diciamo le panzane, sono stata in Israele qualche volte. Basta mettere su il spiaggio, faccio vedere questo lo voglio e ce l'ho. Vabbè, quello che c'entra. Ma infatti, mica dico niente. Che israeliani si scopano la grande, che scopano anche bene. Gli israeliani scopano bene, questa è una notizia interessante che viene da. Questa è una tradizione, però, che viene riconosciuta, quella degli israeliani. Ma non è un problema di religione, però. Sai. Allora, però, io vorrei concludere questo intervento con la mitica Donatella, che ci verrà a trovare sicuramente quando viene in Italia. Anzi, verrà ospite a casa mia a Milano, sia Donatella, senza che ci sia nulla, però, in ballo. Ma Cruciani, a te li tira, perché te sempre parli con di sesso. Beh, adesso. Il proverbio dice che cane che abbaia un morde. Quello è vero, hai ragione. Hai ragione, perfettamente ragione. Senti, ma che ne pensi di Renzi? È un cretino, un pagliaccio. Un pagliaccio. Praticamente per colpa di Renzi mi è simpatico Berlusconi. Addirittura. Ma è vero che c'hai la suoneria con faccetta nera tu? Sì. Come fai a sapere? Beh, me l'hanno detto qualcuno che ti ha sentito. Questa è la prova, vedi, è vero. Un ebrea, polacca, ebrea, la suoneria con faccetta nera, beh, amico, siamo veramente al top. Guarda, perché prima fidanzata di Mussolini era una ebrea. Va bene. E Mussolini, le leggi razziali l'ha fatto alla fine del 2008. Questo è vero. Perché praticamente Inghilterra e Francia lo hanno spinto nelle braccia. Vabbè, adesso non andiamo alla storia adesso. Scusami, sai cosa dicono sempre? Gli antisemiti dicono sempre, gli ebrei sono tutti intelligenti, cosa non vera peraltro. Questa è la prova che non è così, perché se questa signora ha la cosa di Mussolini sul telefono è la prova provata che non tutti gli ebrei sono intelligenti. Guarda, ti ha dato della cretina Donatella, ti ha dato della cretina molto di più. Vabbè, guarda, questo non mi preoccupa. No, beh, immagino che non sei sconvolto. Comunque Donatella, guarda, vieni in Italia. Sentire da un cretino che sono una cretina è un complimento. Allora, le regole di Donatella sono questo: la donazione per il nostro servizio dovrà essere inserita in una busta e visibile al mio arrivo. Non mi devi mai chiedere di ciò. Non capisco questo. Cosa? Cioè, uno deve venire con la busta da te già dentro, con i soldi dentro la busta? No, l'hai scritto tu, l'hai scritto? No, queste marchette normali quando vengono per un'oretta, facciamo da mano a mano, poi io non sono così fiscale, perché io visto che sono indipendente, se uno mi è simpatico sta anche di più. Addirittura, non hai orari, problemi. Figa, se mi viene un ragazzo di 22 anni, puoi allora vedere. Lo fai divertire un po', e ti diverti anche tu, come dire. Direi, anche perché il sesso non è male. Ma chi ti piace in Italia? Ti piace Rimming? No, no, ma non entriamo adesso, un'altra volta, adesso non sono in serata. Che cos'era, scusa, il? Rimming. Il rimming, che è il rimming? Sì, ho capito, ma è una cosa terribile. Cos'è? No. Senti, senti una cosa. Ma di cos'è che parla? Ma chi ti piace in Italia di politico adesso? Salvini ti piace? Salvini? Salvini ti piace? Mi piace buon anno. Bah, Parenzo. Wow, è una grande. È un grande buon anno. Donatella. Poi numero... di stranieri mi piace quello ungherese. Ah, l'ungherese Orban, quello che mette il muro. Sì, il muro. Il muro. Beh, è un mito. Questo però. È grande. Lo sai che non ce l'ha un centesimo di debito con fondo monetario internazionale? Addirittura non c'era un centesimo. Senti, di debito. Ma da te vengono i clienti? Sei riuscito, diciamo, nel capolavoro di aver beccato l'unica, lo dico in ebraico, zonà, perché è così, puttana. Non so tanto bene ebraico, cioè non è che vado l'unica studiare. Che sono fatto vivo, ho 25 anni in Italia. Salvini, gli piace questo criminale di Orban e ha la musica sul cellulare di... Scusami Donatella, per chiudere, hai clienti arabi tu, clienti musulmani? Io guarda, su una pagina di Wikipedia ci sono tutti i prefissi internazionali, quindi quando mi chiamano controllo da dove mi chiamano. No, ma c'hai qualche paesi arabi sono ok. Ma hai qualche cliente musulmano o no? Pakistan, Pakistan, Afghanistan, vabbè. Per esempio Arabia Saudita sono educati, hanno studiato e roba varia, sì? Vabbè. Però pakistani e afghani e poi, aspetta, cos'altro? E che ne so io? Se mi venisse un ceceno, ceceni sono proprio cattivi dentro. E i neri? È che smettesse di difendere i musulmani, i palestinesi, Pareto, perché forse non si ricorda quello che hanno girato su Rai 2 quando hanno mangiato le budella. Ma non difendere nessun palestinese. Ciao Donatella, ciao. Allora, dove andiamo? Vai, Carmine, Roma, vai, Carmine. Sì, ciao ragazzi, buonasera. Diciamo che anche io faccio del bene all'umanità, non come la signorina di prima, insomma, faccio più modestamente il medico e ci vogliono 4 mesi di stipendio mio per prenderne uno dei suoi, ma non è questo il punto, non ho chiamato per questo. Ho chiamato perché ho sentito una serie di minchiate, cazzate riguardo la canapa, cannabis, marijuana, quello che vi va. Ma c'è, allora, innanzitutto non si paragona col vino perché è una merita minchiata, ma lo dicevi anche tu d'altronde, no? Poi c'è poco da fare, ragazzi, noi la usiamo in malati oncologici, c'è poco da fare, esatto. fa bene, cazzo, poi scusami, non mi voglio alterare, però porca puttana, è normale, e io ne conosco a migliaia, se tu dispondi di canne dalle 4 della mattina alle 2 della notte, magari un pochino male ti fa, che vuoi dire? Anche se ti sfondi per mezza giornata, uguale. Anche se ti sfondi di mojito, di atrinca. No, ma anche se ti sfondi per mezza giornata, non c'è bisogno dalle 4 di mattina alle 2 di notte. Per dire, perché poi si dice, ma quello sta sempre a fumare, fa male. Ma certo che fa male se tu stai sempre lì a pippà, o anche come dici tu, per 2 ore, 3 ore, 4 ore. Però non equipariamo assolutamente queste non si è anche droghe leggere, queste terapie, perché per me sono terapie. No, ma no, qui però il paragone, guarda, il paragone non era sulla pericolosità. Anche ubriacarsi fa male, eccetera. Il problema fondamentale era quando della vedova, che è uno di quelli che vuole la legalizzazione, giustamente, della droga leggera, secondo me, dice che ormai la cannabis è diventata un'abitudine, come il vino in tavola. È una cazzata, non è così e non potrà mai essere così. Cioè, questo è il punto fondamentale. Non avevo seguito il passaggio. Va bene, grazie Carmine, grazie. Insomma, questa è la cosa, grazie. Alessandro Catania, Alessandro. No, Pippo, ciao. Alessandro, dimmi. Allora, io volevo parlare su come si chiamano, gay, omosessuali, diciamo gay, la facciamo più pulita. Allora, ci sono dei posti dove noi cerchiamo la sera dopo un giorno di lavoro estenuante di andarci a riposare. C'è il ristorante, mangiamo e poi sai, con questo caldo apriamo i finestrini, stiamo un po' a guardare e tu ti vedi 20 macchine che ti girano. Allora, è imbarazzante perché non vuoi guardare, non vuoi, guarda stanotte, guarda che mi è successo a Rimini notte, ho fatto la pausa là, sono sceso, erano le 2:30, non mi ricordo, per fare pipì. E allora? Tu ci credi che avevo a due persone dietro di me che guardavano? Porca miseria, ha ragione l'avvocato Taormina quando dice che sono persone, questi come ho detto, incapaci, no, difettati. Ma che c'entra? Difettati. Rompevano le scatole perché volevano sesso, uno basta dire di no e non succede nulla, no? Ma dai, ma Cruciani, credimi, non è una cosa che si può, sì, siamo d'accordo, tu dici no, però il mio collega un po' esagerato con il coltello, ci vorrebbero le spranghe, tu esci con una spranga, quando si presenta, io guarda, stimo Parenzo. Cioè tu li vorresti prendere a sprangate quando rompono le scatole nelle piazzole? Ma non ti puoi mettere davanti al camion, che già vengono, si fermano tutti che ti guardano, ma che cazzo vuoi? Vabbè, ho capito, Alessandro, vogliono scopare, amico mio, vogliono sesso, a te non ti cambia di corteggiare. A me mi piace, allora io darei una medaglia alla signorina o signora Donatella, che se io mi trovo in Polonia, io la vado a trovare. Beh, quello sicuro. Tranquillo Cruciani, e se tu la ospiti fattene una anche per me, guarda, va bene Alessandro, sarà fatto. Ciao. Allora, proprio in conclusione di questa trasmissione, io vorrei provare a chiamare il presidente Ferrero. Proviamo, presidente. Mi sembrava già collegato, infatti. Ma sei tu, Parenzo, non fare finta. Che ne so, sei tu, mi sembrava Ferrero. Non risponde. Sarà la guida della Porsche. Appunto, starà guidando la Porsche. Riproviamo. Presidente? Commissario! Ecco. No, sono Cruciani. Ma che piacere! No, ma sono Cruciani. Volevo ringraziarla perché mi avete ritrovato Porsche Macanna S. No, ma presidente, sono... Io ammiro tanto, sì, perché sono sempre stato un uomo di legge. Presidente, sono... Io ho sempre creduto in voi. Guardi che sono Cruciani. Nessuno capisce il lavoro che fate, pensi. È capitato pure a me che un agente in divisa era un po' nervoso. Una volta mi ha rifilato pure la multa di un sacco di sordi, mi ha tolto pure la patente. Ho capito, ma io Parenzo, parlaci pure tu, è la zanzara qui. Ma poi io bene, ma non è un commissariato questo, cioè, non è Texas Ranger. Guardi, lei è il commissario, e mo io posso pure dire, ma lei lo sai che Zenga non capisce un cazzo? No, ma per la storia di Cassano, mi sta a rovinare la squadra, pensa, chiamava l'uomo ragno, per me era uomo in bagno, fa pure cagare. No, ma presidente, adesso non se la può prendere così, ma è vero che si voleva dimettere Zenga, presidente? Ma a me di Zenga non mi frega niente, dobbiamo ringraziare voi che mi avete ritrovato a Porsche Macanna. Non c'è niente da fare, come Texas, sentiamo domani, è partito per la tangente. Io ammiro sia da pietra militare da vita mia. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24, la passione si sente.